Se non prendo il caffè non riesco a carburare. La stragrande maggioranza di produttori di caffè consuma 30 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda maggioranza trattata nella mia vita. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali. Tutto il mondo si beve caffè. 17, 5 minuti primi all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia un bel caffè doppio di VX di nuovo in studio con me. E ciao a tutti, qua di nuovo presenti a Caffè Doppio. Tutti svegli dopo il sabato sera? Dai! E una cifra, non ci sarà nessuno, tutti ancora a pelle d'orso sul letto, immagino. E allora abbiamo qui quattro ospiti specialissimi, loro sono i The Singers, li abbiamo invitati questa domenica nella nostra trasmissione. Intanto un saluto, ciao. Ciao, ciao a tutti. E hanno preparato una piccola scaletta per proprio radiofonica, un mezzo acustico, insomma, un po' accroccata. Anche tutto acustico. Tutto acustico, sì, in realtà. Vabbè, insomma, c'è il digitale, la tastiera. Vabbè, lasciamo perdere i dettagli. E sono purtroppo oggi solo in quattro, manca il batterista che non è potuto venire. È in gita. Lo salutiamo comunque. Ciao Matte. Ciao. Allora niente, direi che possiamo subito iniziare con il live, dopo ci faremo una chiacchierata. Loro sono i Singers, ci presentano questi quattro pezzi in live, vi cedo la parola. E questa è Medication. God is what I need. A God. Ed era questo il primo pezzo per i The Singles. Naturalmente vi volevo ricordare che non avendoci lì davanti non potete applaudire, ma c'è una sostituzione a questo, insomma, in Onda Rossa in alcune trasmissioni si usa, potete fare uno squilletto allo 0649 1750 e loro vedranno una bella luce rossa che applaude per loro. Okay. E magari però non lo fate durante il loro pezzo, perché se no suona il telefono e non è bellissimo. Va bene, allora possiamo andare avanti con il secondo e poi gli altri. Ci ascoltiamo, suoniamo. 18, sempre tratta dal disco The Room When Black. Viene qui uno scambio di chitarre agilissimo. Prontissimi. This black clouds, black as hypocrisy, and my end is up and back again. picture the screen. Hungry comes a faceless. As you see, God is not walking here. It's my life you've been chasing. Motionless, upright, I think. The great and crumbling, fading. Motionless, upright, I think. With nothing to do but waiting. This black cloud, black as hypocrisy, and my end is up and begging for Alessandro. Your sharp rays rip this black cloud, black as hypocrisy, and my end is up and begging for the sun. E questi erano i The Singers. Beh, veramente complimenti. Io, beh, ho avuto delle sensazioni molto molto gradevoli nell'ascoltarvi, e spero che tutti i nostri ascoltatori in questo momento stiano pensando la stessa cosa. Speriamo e, di sì. E se apprezzate la musica dei The Singers, beh, contattateci, il numero è 0649 1750. Mi raccomando, fate squillare questo telefono, vogliamo arroventato questo telefono. Benissimo, allora non so se adesso ci suonate un altro pezzo oppure se vogliamo andare avanti con... Ve ne facciamo uno in chiusura magari. Va bene, allora chiudiamo con un live. Per adesso ci possiamo invece sedere, ci mettiamo un po' più comodi davanti a un microfono e un bel caffè doppio e, e ci facciamo due chiacchiere. E intanto magari mentre ci risistemiamo ci possiamo già ascoltare un pezzo invece dall'album da poco uscito. Non so, potete dirmi magari voi. Partiamo col botto? Cioè col botto. Partiamo con Dance, che è il Dance Hit the Floor, che è il primo singolo estratto dall'album. Benissimo, allora Dance The Singers. Down in the front of the matters anyone in and out. Eccoci di nuovo in collegamento, 17:23 minuti, di nuovo Caffè Doppio. E qua chi c'è? Singers. Ah, ecco. Ci siamo. Vabbè, anche voi reduci del sabato sera. Abbastanza, grazie. Tu vedi gente, io non vedo nessuno. No, manco io vedo nessuno. No, no, stanno tutti siamo, dormendo. Ci siamo. Parliamo con i nostri amici immaginari, noi li sentiamo, speriamo anche voi. Allora, ci raccontavate di questo pezzo in fuori onda, si dice? Sì, se non lo sei tu. Se non lo sai io, infatti non si sa. In fuori onda parlavamo di questo pezzo, insomma io direi che possiamo iniziare da una piccola biografia del gruppo, sia diciamo cronologica che anche artistica secondo me, no? Perché di solito questi gruppi emergenti iniziano con un genere e poi si ritrovano dopo due anni che fanno tutt'altro. E invece? E invece no, voi avete iniziato con un genere. Ok, allora la parte artistica già. Una volta puntata lui deve toppare, cioè sì. Deve dire la bufala. L'ha detta. Allora solo la cronologica, va bene. Nasciamo nel 2010, quelli che vedi più l'altro che manca sempre per la gita premio. E siamo Vicky, Andrea, Giulio, Federico e Matteo. Perché com'era la cosa della perché mancava qualcosa di nuovo. Sì, com'era quelle frasi fatte. Sì. E invece no. No, suonavamo io e Giulio suonavamo insieme da un po', poi noi tre, insomma, diciamo che poi è arrivato Matteo, poi Federico, la cosa è montata. Diciamo che però siamo entrati subito in studio perché avevamo queste 12 tracce che poi compongono, che oggi compongono The Room When Black. Non siamo passati da demo tape, non siamo passati da nulla di tutto questo perché c'avevamo prescia di buttare giù il disco. Siamo entrati in studio, abbiamo registrato l'album, siamo andati a Londra, abbiamo fatto il master da un signore pazzesco che veramente ogni giorno lo ringrazio quando mi sveglio, che si chiama Tim Debney. Non riuscirò mai a dire questo nome, cazzo. Però lo ringraziamo sempre. Però lo ringraziamo comunque. E niente, e poi sarà come morire. Sì, stiamo facendo tante altre cose, nel senso che a parte promuovere il disco dal vivo, stiamo suonando un po' ovunque a Roma, siamo andati anche un po' in giro per l'Italia, in particolare Perugia, così. Grande concerto. Ringraziamo tutti gli universitari di Perugia che ci hanno cappottato quella sera. il dance, parlando del singolo, stiamo finendo il montaggio del videoclip. Lo so che in realtà il videoclip esce quando esce il singolo, però siccome noi siamo delle pippe e non ci aspettavamo, soprattutto siamo indipendenti, esatto, bestia. E siccome non ci aspettavamo quello che poi la canzone, diciamo tra virgolette, ha scatenato, perché comunque è piaciuta abbastanza in giro per fortuna, e abbiamo buttato giù il video e adesso è in montaggio, quindi speriamo insomma che anche con il video del pezzo di ottenere più visibilità e rintracciabilità. Vabbè, insomma, avevate prescia voi prima e poi il pubblico ha avuto prescia di far uscire subito un video. No, devo dire che le risposte all'album, anche in termini di recensioni, non ci possiamo lamentare, siamo tanto contenti. Esatto, chiudi la finestra. Una finestra che si chiude, molto shining. E niente, quindi no, dance va bene, speriamo che vada bene anche il resto dell'album, nel senso che speriamo di poterlo portare in giro il più possibile. Ci siamo ripromessi, insomma, il 2012 sarà un anno dedicato al live, perché nel 2011 abbiamo fatto tanta roba, siamo stati molto in studio, anche perché poi Rocket ci ha chiesto la registrazione di un EP che è ancora in streaming e download gratuito appunto sul portale Rocket. Abbiamo fatto una cosa tipo quella che abbiamo fatto oggi, nel senso che è un EP semiacustico di pezzi dell'album rivisitati. È stata una cosa molto divertente, ringraziamo sempre Rocket per averci dato la possibilità di farla e basta. E ci raccontavate anche che è stata richiesta questa canzone per una pubblicità che però nessuno di voi ha visto, se abbiamo capito bene. No, nessuno di noi l'ha vista dal vivo. Abbiamo visto il file. C'è un motivo specifico. Spiegate. Sì, no, infatti non spiegarlo perché altrimenti sembriamo. Spiega. Spiego io, ok. Allora. Questo onore. Il pezzo Dance Dance Dance è stato scelto da una nota marca di abbigliamento. Che si chiama? Che non, di cui non lo diciamo perché non ci interessa. Questa pubblicità c'è stata prima di un noto film di cui non faremo il nome. No, facciamo il nome di questo film. Scusatemi, aspetta, perché è il motivo. È una celebre saga vampiresca. La celebre saga vampiresca, che non è Dracula, esatto. Non è neanche Intervista con il vampiro, esatto. Che non sono saghe, film. Però va bene. E nessuno di noi ha voluto andare a vedere questo film, non ci hanno dato pass gratuiti, esatto. E quindi... Non volevate dare soldi no, a no. Rovinati, ah, no. Che film? Non ci arrivo, scusatemi, ma... E guarda, è quel film, quello lì, luce, diciamo. Ma... Quello del Crepuscolo, diciamo Crepuscolo. Così. Ah, sì. Oddio, ma state dicendo Twilight, oddio, cioè, troppo bello, è quello, ma prego, troppo bello, davvero. È lui, cazzo. No, ti giuro, io ho visto tutti e tre, ho letto pure i libri, non l'ho capito perché non so leggere, però li ho letti, cioè, l'ho visto. Infatti, bellissimo. Da quel giorno va in giro glitterato, come Edward Cullen. Voglio salutare Edward, tra l'altro. Sì, ciao Edward. Ciao bello, come stai? Io saluto la tizia, esatto. Non so come si chiama, però io saluto lei e anche Claudia, se okay. Posso sì. Vabbè, nel film si chiama tipo Bella. Bella, vabbè, bella, bella, bella, bella per te, sì. Vabbè, dai, io direi che ci possiamo subito ascoltare un altro pezzo e poi continuiamo questa chiacchierata. Va bene. Che traccia ci date? Allora, Gods to Surrender. Ok. Ho pronunciato bene? Passa. Benissimo. Meglio di... L'inglese perfetto. Mai capitato, eh? Infatti la prima volta, questo è un evento storico. Finisce anche questo pezzo che ho pronunciato benissimo la prima volta, perciò non lo ripronuncerò. Comunque era dei Singers. Esatto. Io te lo farei ripronunciare giusto per traccia provare. 4. Traccia 4, anche il titolo dell'album è in inglese, perciò non vi dico neanche no, quello. Dai, è facile, su. Lo dai, allora, provaci. Te. Rom. Esatto. Sì. Vent. Black Black, bravo, Blachk, esatto. Blachk, che significa? vuol dire allora non il rom non è preparato esatto. Vento nero, bravissimo. Nero lo sapevo, me lo ricordo. Ah, sì. Detto va bene questo, così. Inglese fai da te. Lesson number one: the rom. Allora, basta, abbiamo capito. Okay. Sempre esagerare, guarda, non si sa mai quando finire di scherzare. E allora era la traccia numero 4, Gods to Surrender. Dei The Singers, tratto dal primo album di debutto, The Room Went Black. E un applauso per l'inglese! Vedi che le lezioni fai da te alla fine funzionano. E niente, questo album autoprodotto con tanto di sigillino della CIA. C'è il sigillino, esatto. C'è il sigillino. Sudatissimo sigillino. Fa anche quasi paura quando vedi il sigillino della CIA. Sì, molto perché, vero. È una roba seria. Rischia di essere una cosa seria. Noi non lo siamo, lo voglio precisare. Ringraziamo la CIA per il supporto, sì. Eccetera. E beh, insomma, ci scambiavamo informazioni dai musicisti, ce la ridevamo sull'organizzazione di questa splendida società italiana per autori ed editori. Di cui? Che... No, vai. Vabbè, insomma, noi ricordavamo la nostra esperienza di uno o due anni fa quando abbiamo dovuto depositare i nostri brani con quel cazzo del modulo cioè che poi dovevi scrivere tre note. Che cazzo mi significa tre note? Cioè, il pezzo è tutto, insomma, andavi lì dalla signorina che tra l'altro, poverina, non c'entra niente, lei sta là a fare il suo lavoro. Però che ti dice, no, perché qui me devi mettere la melodia e poi all'inizio del 24 del centesimo perché è fratto 8. Ma che, scusi, io faccio il musicista, che vuol dire, insomma. Poi la cosa più assurda è che per la riproduzione dal vivo c'è una divisione del copyright e per la divisione per riproduzione invece, io vabbè, non insomma, c'ho ancora capito mega ciara, si ha e vai a lavorare. Ne sei più tu di noi a lavare le ciole, ma perché ci ha passato anni a studiare, cercava di capire, ma non ci è arrivato. Cioè, alla fine uno divide il pezzo come gli capita, insomma. Vabbè, insomma, prima ci raccontavate qualche aneddoto, insomma, sulla SIAE, e io vorrei che lo diceste. Raccontateci anche la vostra esperienza. Adesso non ricordo. non ricordi? Adesso... No, vabbè, è tutto bene, sono tutti molto gentili. Sanno scrivere l'inglese, esatto, molto perfettamente. Bene. Lo sanno scrivere meglio di noi, esatto. Soprattutto meglio di me. Io sono cresciuto in Canada, la CIAE scrive in inglese meglio di me. Assolutamente, perché in realtà black si scrive con la E. Con la E. Cioè, giustamente. Ovvio. Diciamo che meditano parecchio. Meditano sulle pistole. Esatto. Vabbè, adesso lo dici, no? Mi dispiace, però. Niente, un pezzo dell'album che si chiama Medication, che abbiamo ascoltato prima in versione acustica meravigliosa, che ha un sottotitolo che è... Ode to the Gun, è diventato alla CIA Meditation on the Gun. Meditazione sulla perché? Pistola. Io vorrei sapere perché. Ma queste sono domande che non avranno mai una risposta. Ma passiamo avanti. Potremmo interpellare Jerry Polemica, che potrebbe fare un po' di luce su questo. Ma perché no? Ma ora passiamo ad altro. Va bene, sentite, allora passiamo alle domande serie, che però mi sono dimenticato e forse adesso mi ricordo. Allora torniamo alle domande stupide. Però non mi vengono in mente manco più quelle, perciò forse le serie vanno meglio. Diciamo che voi avete scelto un genere che io è quello dell'indie rock. Sì. Sì. Beh, fino a che siamo indie, nel senso, fino a che siamo autoprodotti siamo sicuramente indie. Ok, fantastico. Fa una piega. E una scelta dovuta, immagino, alle influenze musicali di altri gruppi che ascoltavate. Sicuramente. Ma anche perché proprio ci viene da scrivere così. Fondamentalmente. So che anche il nome del gruppo è molto legato alla scelta del genere. Perché ha l'articolo davanti? All'articolo. No, veramente, perché cioè, si dice, ce lo dicono, è così, nel senso che tutti i nomi di gruppi con l'articolo davanti, almeno negli ultimi 10 anni, 15 anni, si sono rifatti, erano gruppi che facevano parte di una corrente. In realtà noi ci suonava e basta, nel senso che poi c'è anche una... La dico. Vabbè. C'è anche una storia, ovviamente, come per tutto, dietro il nome, nel senso che The Singers ovviamente siamo noi cinque, perché non potrebbe non essere così, Però il fatto del to sing, no? Del cantare, ha a che vedere con la nostra devozione alla forma canzone, al concetto di ritornello, che è una cosa dalla quale non ci separeremo mai, nel senso che un pezzo è un pezzo solamente se, come diciamo sempre, suona chitarra e voce, e quindi si può ascoltare anche solamente chitarra acustica e voce, come abbiamo fatto magari un po' prima. E allora lì il pezzo è buono, nel senso che poi il vestito che, mazza come sono serio, sono diventato il vestito che poi decidiamo, non ci crede nessuno, il vestito che decidiamo di mettere addosso al pezzo può essere anche cioè l'arrangiamento alla fine è frutto del gusto del momento, piuttosto che, cioè, non ce ne sbatte veramente niente dei generi, te lo posso assicurare. Questo concetto di cui parla Vicky è una cosa che i singers hanno nel cuore, anche nelle chitarre. Penso che i nostri riff sono riff che uno può anche cantare e ricordarsi, perché sono melodici, non sono... Non cerchiamo tecnica, sì, no, oppure no. Individualismo, tutto è per la melodia e per la canzone, e la cosa canzone che nasce poi dal è... cuore per il cuore dello spettatore, esatto, alla fine. Dai testi alle strofe, ai riff di chitarra, cioè, dirò una cazzata, anche posso dire cazzata? Sì, cioè, anche tutto quello che abbiamo detto su Twilight, possiamo dire tutto. Anche un pezzo come Dance, che in realtà è ovviamente il pezzo portabandiera dell'album, perché è più immediato, perché è più orecchiabile, eccetera. In realtà, secondo noi, ovviamente, stava benissimo dentro il disco, che ha come tema di fondo, diciamo che non è un concept, però se avesse un argomento portante sarebbe la malinconia, il tema portante del disco. E anche un pezzo come Dance, nonostante il vestitino tutto pagliettato, what you worry, che ha addosso, in realtà è un pezzo che, insomma, porta con sé diverse, non lo so più, sì. No, basta, non voglio dire più. Vabbè. E anche sul nome The Singers, prima ci chiamavamo Tape è stato preso. È buttato? No, è stato preso da un altro gruppo. Questa cosa non la dovevi dire mai. E abbiamo scelto The Singers. Esatto. Altri aneddoti, quindi. No, vabbè, dicevi che in generale non è un concept album, però, assolutamente, però ha un tema di sottofondo, sì, che è comunque la malinconia. Io vedo molta malinconia in questo. A partire dalla copertina, infatti vorrei parlare un attimo con voi della copertina. Oh, che bella, insomma, domanda, non ci chiede mai nessuno della copertina. No, nessuno. Perché sono stato, mi ha colpito, insomma, mi piace molto questa immagine, e volevo sapere da voi se è un'immagine che vi ha fornito qualche altro artista, magari un fotografo. Un fotografo, il batterista. Che non c'è, che non, però c'è. Fa anche le foto. In realtà non fa le foto, no, ha sculato. No. Quel giorno ha sculato. Quella mattina. E tra l'altro, vabbè, la foto di copertina è Roma, ed è il Gianicolo sotto la neve, cioè una scalinata del Gianicolo sotto la neve. Non questa neve che ha fatto danni quest'anno, ma la neve dell'anno precedente. Sì, era il 2010. Era 2010, due anni fa. 2010. Non ricordo, sinceramente. No, vero, esatto. Sì, quella neve, giusto perché Alemano non ha accusato il meteo, allora io non mi ricordo di questo avvenimento. Sì, no, infatti non ricordartene. E quindi sì, e ci piaceva, cioè ne abbiamo vagliate un casino, perché poi in realtà siamo dei rompipalle su tutto quello che riguarda questo gruppo. Ce ne saranno state 15. Sì, avremmo buttato giù 15 copertine, tutte definitive per noi. Poi sì, abbiamo tutte fatte da noi, poi. Sì, poi abbiamo, noi. Sì. Quella però era la prima. Sì, quella era la prima scelta, sì. E, non avete pensato magari di fare più copertine? La gente si impazzisce, dice: ma qual è la copertina, sì, ma, giusta? Cioè, è un sacco mainstream adesso questa cosa, non so se lo sai, tipo, no. Fanno tutti molte copertine cioè, penso che da quando l'hanno fatto, posso dirlo? Sì. Da quando l'hanno fatto i 30 Seconds to Mars, tipo, adesso non lo vuole fare più nessuno questa cosa. L'hanno fatto i 30 Seconds to Mars, noi non lo vogliamo fare. Assolutamente no. Aia, a me dispiace perché a me piacciono. Sì, no, vabbè, no. Cioè, pure a noi in realtà, non le copertine. A me non piacciono. No, lui no. Vabbè, però... Copertina a parte, vabbè, insomma, quindi è anche fotografo, un artista nell'artista, un più pochettino. Un po' sì, perché anche la copertina dell'EP Esatto, anche quella è opera del batterista Matteo, sempre sculato. un po' sculata però anche un pochino un po' più cercata dell'altra, un po' più voluta, sì. Allora c'ha quel piccolo genio in più, magari. Sì, ce n'ha molto di... Ma perché continuare a parlare di uno che non c'è? Pace all'anima sua. Se non si sente la voce, almeno creiamo un... non so, si può immaginare... No, non lo so cosa sta dicendo. No, però... Non lo sa. Vabbè, volevo dare una risposta a una domanda retorica, vabbè. Vabbè, io direi che ci possiamo ascoltare ancora un altro pezzo. E... Sentiamo, ditemi voi. A caso? Sentiamo Pigna? Pigna. No, vedo. Pigna per gli amici. Traccia 5, Pigna Colada Experience. Se non si chiama Pigna come quelle dei pini. Sì. Allora, Pigna Colada Experience e The Singers. Ora i The Singers sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è Caffè Doppio, l'album da cui stiamo traendo le canzoni che stiamo ascoltando è The Room Went Black. E allora qui continuiamo a chiacchierare in fuori onda. Una cosa che ci interessava chiedervi e far sapere anche al mondo era come mai da... anche. Sì, ciao mondo, ciao, come mondo, stai? Ciao. Vabbè, adesso magari ci chiama, sì. Aspettiamo un attimo. Ricorda il numero, magari. Allora 0649 1750. Appello al mondo, chiama tu. Tu mondo. Ecco. Il mondo sta chiamando. E allora ci chiedevamo come mai da gruppo italiano avete scelto invece di cantare in una lingua che non è la vostra, che è l'inglese. Risponderà il canadese del gruppo. La lingua che abbiamo scelto, che è l'inglese per il nostro disco, viene da un fatto di metrica sulla canzone, che adesso spiego meglio. L'inglese per l'indie, diciamo, questo stile di musica, come lingua, come battute di parola, come frasi, metrica proprio, sì. C'entra meglio con questi pezzi in quattro quarti, molto veloci, dove per la lingua italiana, che io trovo più bella ovviamente per cantare, però è molto più difficile, perché per una metrica di un pezzo di 2-3 minuti, se vuoi dire qualcosa lo devi dire bene e senza essere banale, che in inglese è molto più facile. Sì, esatto. Non è un concetto, diciamo, non ci avevo mai pensato a questo concetto, cioè, però è assolutamente vero. Quante volte mi sono trovato a scrivere strofe, ritornelli, mi sono accorto quanto l'italiano le rendesse banali, sì, ma proprio banali. Scritte in inglese avevano tutto un altro significato. Io potevo dargli veramente una spinta in più al pezzo. Entrava la poesia. Esatto, sì. È una scelta. Poi io, come ho già detto, sono cresciuto in Canada, quindi lo mastichi. Sì, abbiamo fatto pure delle lezioni d'inglese io e Vicky, per non avere questo, io lo chiamo italese, di questi gruppi, diciamo, italiani che cantano in inglese, che è un inglese molto scolastico, mentre con Vicky ci siamo messi là e pronuncia, calata anche. Sono cose serie queste, eh? E penso che il nostro inglese è molto buono sul disco. Ce l'hanno anche riconosciuto, insomma. Diceva il tastierista, a suon di bacchettate? Sì, sì, a proprio bacchettate. A bergate mi ha preso. A bergate. Con la violenza dentro. Questa è la ragione per cui cantiamo in inglese. Sì, in realtà non c'è nient'altro, nel senso che poi è più facile. Sì, esatto. È più facile dire quello che uno pensa su un pezzo di 3 minuti. Perché se è sul cantautorato, l'italiano è molto più bello, perché fai 4 accordi per 5 minuti e sopra ci dici quello che vuoi, perché tanto quello rimane con noi. Devi dire quello che vuoi dire. Devi suonare bene e devi far ballare e cantare la gente. Tutto questo in 3 minuti in italiano lo troviamo molto difficile noi. È una risposta. Questa è la nostra risposta. Ci sono dei gruppi italiani che comunque lo fanno molto bene. Certo, è proprio quello che vi stavo per chiedere. Se avete Ministri, per esempio, sono un grandissimo gruppo, secondo me. Verdena. Sia dal punto di vista dei testi, Verdena sì. Parlo solo per me. Io trovo I Cani, ovvero Niccolò, è bravissimo a scrivere i testi, sono testi molto, molto buoni e molto validi per lo stile di musica che fa. Anche gli Amari sono un gruppo che ho sempre amato per i loro testi. Diciamo che guardiamo a quelli che lo sanno fare in italiano con ammirazione. Esatto. Cioè, non so se sei capito. Esatto. Noi no, non lo sappiamo fare. Noi non lo sappiamo fare. Inglese, per noi. Esatto. Va bene, allora, insomma, mancano 10 minuti allo schiocco delle 5. Forse ci possiamo già ripreparare. Ah, sì, delle 5. Delle 6. Sì, mi guardava il tastierista un po' male. Vabbè, guarda, allora non la devi ascoltare. Che paese sei? Che fuso hai? Quale fuso orario? E direi che ci possiamo ripreparare a fare un altro pezzo live. E poi niente, magari ci lasciamo. E poi vi diamo qualche contatto per l'album. E, certo, e dove trovarci e dove venirci a menare, se ci volete venire a menare. E nel frattempo che qua in studio ci ripariamo, io direi di ascoltare un altro brano del. Ok, ascoltiamo la traccia 6 dei The Singers, Red Snow. E Tameto, vai con la base. Scusate la voce porno. Let me be sound in a sad song. Ed eccoci di nuovo in collegamento, 17:54 minuti e siamo arrivati alla chiusura di questa puntata di Caffè Doppio in compagnia dei The Singers. E vabbè, vorrei chiederti l'ultima domanda: dove possiamo trovare tutti i vostri lavori, tutti i vostri contatti, insomma? Allora, la nostra pagina Facebook è un po' il quartier generale dei Singers e l'indirizzo è facebook.com/thesingersband. Altrimenti l'album si può trovare in digitale su iTunes e in realtà un po' ovunque, Amazon eccetera, e non siamo ancora distribuiti nei negozi per scelta, potere alla musica indipendente. E poi c'è Bandcamp, comunque su Facebook ci sono tutti i contatti, c'è il nostro canale YouTube e insomma ci trovate sicuramente. E poi se li andate a seguire live sicuramente troverete tante copie del loro disco e sì, potrete acquistarlo direttamente dal concerto. A prezzo speciale. A prezzo specialissimo. Anche merchandising, sì. E poi vi ricordo anche l'EP che si chiama The Room When White, per rimanere in tema. L'EP semiacustico che abbiamo registrato in esclusiva per il portale Rockit, che è disponibile in download gratuito e in streaming su rockit.it fino a prova contraria. Perfetto. Fino a prova contraria. E con questo noi chiudiamo questa puntata di Caffè Doppio con un ultimo brano, sì, live dei The Singers, che si chiama Buy Me Flowers, che non è contenuto nell'album. Speriamo che il secondo disco dei Singers, qualora dovessimo arrivarci, conterrà questo pezzo. E buon ascolto. Thank you. l'ultimo pezzo dei The Singers, ospiti oggi a Caffè Doppio in Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto degli 87 e 900 sulla modulazione di frequenza. E allora, niente, questa puntata finisce qui, sono adesso schioccate alle 18, precisi. Oh. Che mai capitato. Per Tameto le 17. Le 17. Londra, Berlino. E, vorrei ricordare che ce l'ho tutti a memoria, non è che abbiamo gli orari vari, me li invento io, non ci abbiamo. Ma si vede, infatti. Allora, vi volevo solo ricordare il numero di telefono di Radio Onda Rossa, 0649 1750. Un'ultima domanda veloce ai The Singers: se avete qualche concerto in programma prossimamente, e sulla pagina di Facebook per gli update, perché siamo Perfetto, in contrattazione comunque, sì, sicuramente, esatto. Stiamo preparando anche una sorpresa per l'uscita del videoclip del primo singolo. Ottimo, quindi fantastico. Tutto su Facebook. Ok, allora sui palchi prossimamente a Roma e in Italia i The Singers. Che volevo dire, non mi ricordo più. Ah sì, certamente potete contribuire alle spese di Radio Onda Rossa, la radio senza pubblicità, con un contributo sul conto corrente postale 618 04 001. E allora chiudiamo con la consueta sigla di Caffè Doppio. Un saluto a tutti i The Singers, particolarmente a Matteo, che ovviamente la sagoma nera col punto interrogativo che abbiamo messo qua di fianco a noi, ma nessuno la può vedere. Esatto, un batterista un po' statico. Va benissimo, allora questa puntata la trovate anche in podcast sul sito di Onda Rossa, ondarossa.info. La mail di Caffè Doppio è caffè doppio caffè doppio @ondarossa.info. La E senza accento è quello il difficile, okay. Non sai come pronunciarlo. E vabbè, un saluto a tutti e tutti gli ascoltatrici e ascoltatori, sì. E particolarmente un saluto a chi ci ascolta da dietro le sbarre. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata nei mercati finanziari. 70 milioni. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.